Intanto buonasera, scusate l'organizzazione un po' macchinosa, ma è stato un po' Veniamo davanti, adesso Sì, ci penso. non lo so perché mi diceva che c'è anche un problema di registrazione, non so bene. Puoi Ah, ecco, portare il va bene. Ah, registratore con posso sé? ovunque. Adesso io spero che si sente davanti, si Sì, sente qualcosa. E, assolutamente. ecco, questo qui intanto lo imposto qua. Lo lasciamo qua così fermo. Intanto magari veniamo davanti un attimo, che sennò guardiamo la nuca. E dopo faremo un po' vedere, perché questa sera anche sarà una presentazione un po' monca, nel senso che manca una terza relatrice, che è Silvia Volkan, storica dell'arte, e che ci ha coadiuvato in questo piccolo lavoro che abbiamo organizzato insieme ad Andrea la volta scorsa per un'iniziativa che abbiamo fatto alla biblioteca di Egna su invito dell'amministrazione locale. L'abbiamo fatta molto volentieri e abbiamo sviluppato un argomento che magari non è esattamente così al centro dell'attenzione di queste giornate, di questi mesi, insomma, dove ha prevalso forse appunto l'intendimento, se non agiografico, nei confronti della commemorazione hoferiane. Certamente però ha prevalso, diciamo, una lettura più, tra virgolette, istituzionale, con naturalmente la notevolissima eccezione di Storia Regione, di Geschichte und Region, di cui abbiamo uno degli esponenti di spicco e una delle anime più importanti, direi, della storiografia locale, che è il professor Christoph von Hartungen, che ringrazio ancora di essere venuto, che mi fa veramente un grande piacere avere qui questa sera. L'intendimento naturalmente non è quello di aprire chissà quali finestre completamente radicalmente innovative rispetto alla lettura della figura di Andrea Sofar all'interno della storia locale, ma è più che altro quello di offrire magari qualche spunto. Naturalmente, ecco, era nato un po' per un pubblico molto, molto meno specialistico di questa sera, che evidentemente è un pubblico molto più, anche se molto più ristretto, estremamente, estremamente selezionato. Non tutti. Non tutti, però insomma, visto che i numeri sono questi, c'è quasi un 50% di Siamo altamente specializzato. disponibili. La volontà era quella di indicare quelle possibili chiavi di lettura un pochettino diverse rispetto all'impostazione, che partivano da uno spunto di una oramai vecchia pubblicazione, però a mio parere sempre molto interessante, curata da Erich J. Hobsbawm e di Terence Ranger, testo degli anni 70, si intitolava L'invenzione della tradizione, che in Italia ha avuto una forte circolazione anche all'interno della pubblicistica storiografica, modernistica e non solo, che ha, questo naturalmente in Italia è circolato soprattutto negli anni 80 e 90, ha offerto degli spunti molto interessanti di riflessione sul tema, per l'appunto, di come si costruisce una tradizione consolidata nella dimensione della modernità, ovvero, questa si potrebbe sintetizzare così un po', la tesi forte di Hobsbawm e che viene raccolta poi da interventi diversi, perché è un testo a più mani, con diversi interventi, forse uno dei più significativi, perlomeno quello che userò abbastanza direttamente nei riferimenti questa sera, è il saggio di Sir Hugh Trevorrow, perché è mancato qualche anno fa, sulla l'invenzione delle la tradizione delle Highlands in Scozia, quindi un testo che è stato il prodotto in realtà di di un grosso convegno svoltosi negli anni 70, alla fine degli anni 70 poi in Gran Bretagna, e che poi è stato ripreso successivamente ed ampliato, e che ha consentito appunto di porsi la domanda intorno a che cosa significa dal punto di vista storico e dal punto di vista anche, diciamo così, della storia del pensiero, non solo e tanto dal punto di vista della storia politica o della storia istituzionale, porsi di fronte a un oggetto così particolare come quello di una tradizione che si fissa, in qualche modo si consolida, e che però è tutt'altro che, dal punto di vista storico, frutto di un'azione puramente spontanea, è il prodotto di una dinamica storica. Nella lettura che ne dà Hobsbawm concorrono diversi elementi. L'interpretazione che dà il grande storico anglo-tedesco è quello di una forte prevalenza dell'elemento politico, istituzionale e non solo economico nel determinare poi la fondazione di interi apparati di tradizione, e alla luce di questa chiave di lettura, alla luce di questo paradigma interpretativo, mi è parso interessante proporre ad Andrea, che ha fatto un bel lavoro della sua tesi, laureato in storia, scienze politiche, l'indirizzo è storico comunque, quindi non puoi smentirmi eccessivamente che è proprio storico l'indirizzo, proprio sulla figura Hoferiana e sulla costruzione poi progressiva anche dal punto di vista diciamo pubblicistico letterario poi di quello che si sarebbe tentati di chiamare il mito Hoferiano. E quello che ci è parso anche piuttosto importante da segnalare, da mettere un po' a fuoco, è il ruolo svolto dall'iconografia, e qui si intende per iconografia qualcosa di molto concreto, qualcosa di molto diretto, cioè l'elaborazione proprio della figura di Andreas Hofer e di quello che possiamo dire addirittura il sembiante, la stessa addirittura fisionomia, quindi la costruzione di tutto quell'apparato di immagini, di simboli, di divise, di trachten per esempio, di vessilli, che hanno costituito un elemento fortissimo nel fissare poi in quello che è diventato ormai un topos collettivo, un luogo comune tra virgolette, anche non sto qui a giudicare assolutamente in questo momento la sua negatività o la sua positività, sicuramente assai significativo e fortemente importante per la costruzione poi di una immagine molto condivisa dal punto di vista storico della cultura tirolese e poi soprattutto sul tirolese altoatesina dopo il 1919, per quanto riguarda appunto questo forte elemento che possiamo chiamare forte elemento identitario locale. È interessante, io credo, anche un po' la prospettiva che cerchiamo di offrire dal punto di vista della, diciamo così, di un tentativo di dare una lettura dentro una pubblicistica di tipo italiano, tra virgolette, di lingua italiana, che non è che si sia accostato con grande frequenza all'interpretazione del tema Hoferiano, se non con delle modalità un po' convulse, insomma, no? Che sono quelle che sono state segnate di volta in volta nel corso del Novecento, stiamo parlando essenzialmente nel corso della storiografia novecentesca, o da istanze di carattere platealmente anti-asburgico, la maniera della pubblicazione della monografia di Italo Caracciolo del 28, oppure le riletture in chiave fascistizzante del Ferrandi di Storia dell'Alto Adige, che pur tentano un'operazione di bonaria acquisizione del povero Hofer dentro una lettura comunque spregiudicatamente anti-austriaca, fortemente anti-tedesca e diciamo così anche blandamente paternalistica nei confronti della società e della identità contadina tirolese. Oppure ecco, fino ad anni recenti ci fu un convegno una decina d'anni fa di ispirazione neo-vandeana abbastanza interessante, perché l'allora assessore alla cultura abbracciò il vessillo del Sacro Cuore con una enfasi tipica della Val di Fassa, direi, abbastanza cosa, perché in effetti l'aveva così un po' in maniera anche molto, direi, abbastanza ingenua, poi così sostenuta, e così come è stata un po' enfaticamente sostenuta all'epoca, era un po' l'impostazione che seguiva il dettato dell'Agnoli, insomma, poi si è estinta, ma certamente non ha avuto forse la stessa rilevanza. Ecco, mi pare che invece i lavori più significativi comunque attorno a queste tematiche sono state quelle condotte soprattutto a pubblicistica trentina in ambito storiografico, molto significative, c'è un po' quella bella pubblicazione su Piccole Patrie nell'età napoleonica che ha dato un contributo importante, e i testi dell'ottimo Andrea Bonoldi, secondo me uno dei migliori storici modernisti dell'economia certamente, ma anche della società del Tirolo storico in età moderna. Ci sono quindi una serie di apporti, indirettamente anche l'attenzione che è stata rivolta un po' anche dalla scuola di Venezia, in cui c'è un gruppo che si occupa non proprio marginalmente, insomma, della realtà del Tirolo asburgico in età moderna, che fa capo il professor Politi, ma che oggi vede anche altre fisionomie, altre identità che si orientano intorno a questi interessi. Ecco, quindi un pochettino cercare di vedere se è possibile aprire qualche chiave di lettura così un po' meno schierata, tra virgolette, istituzionalmente, e anche così un po' più attenta magari ad alcuni dati che soprattutto sul terreno iconografico possono essere interessanti. Io partirei semplicemente ecco da qui, questa qui è proprio, vuole essere una brevissima introduzione, ma non vorrei annoiare eccessivamente le persone presenti. Vorrei ricordare proprio semplicemente alcune annotazioni che fece Trevor Roper proprio nel saggio introduttivo a questo testo che ho poco fa citato, quando indirizzandosi poi alla riflessione intorno a quelli che sono gli elementi costitutivi di quello che è il tema della cosiddetta invenzione della tradizione, cioè il promuovere poi, e questo accade nell'età moderna, direi con una concomitanza cronologica abbastanza singolare, intorno agli anni 20-30 dell'Ottocento c'è un forte filone di ispirazione storicizzante che guarda a un passato più o meno remoto con la volontà di in qualche modo di fissarne dei caratteri e poi di inglobarli all'interno di una vera e propria prospettiva istituzionale. Qui l'attenzione degli storici inglesi è rivolta soprattutto al caso inglese e in specifico l'invenzione del tema delle Highlands mi era apparso già all'epoca della prima lettura di questo testo particolarmente significativo. Si ritrovano degli elementi e degli argomenti anche di riflessione che sono direi abbastanza interessanti, no? Perché lo cito solo così di sfuggita. Il primo Roper identifica tre tipologie sostanzialmente di tradizioni inventate. Dice quelle che fissavano, simboleggiavano la coesione sociale o l'appartenenza a gruppi o comunità reali o artificiali che fossero. Quindi il tema della Gemeinschaft in qualche modo inventata in assenza di una società e come carattere tipico di una, e questo Hobsbawm lo sottolinea più volte, di una fase di industrializzazione avanzante che spesso spazzava via un retroterra di tradizioni più antiche legate naturalmente al sostrato rurale che veniva progressivamente eroso poi dall'avanzare di un'industrializzazione massiccia che letteralmente lo azzerava. Secondo tipo è, dice, quelle che fondavano o legittimavano un'istituzione, uno status, un rapporto d'autorità, quindi fortemente mediate da una forte volontà politica di un'istituzione, una monarchia, nel caso specifico dell'Inghilterra ottocentesca è la sconfitta, nel caso delle Highlands è molto interessante, la definitiva sconfitta del sonno giacobita scozzese che si data al 1745-46, la sconfitta di Culloden che azzera completamente qualunque ipotesi di forte indipendenza della corona di Scozia e che ingloba in un'unica corona anche un territorio ora molto appetibile soprattutto dal punto di vista minerario, estrattivo nel corso dell'Ottocento. Certamente però con una forte impronta politica e istituzionale. Poi dice C, la tipologia di quelle finalizzate soprattutto alla socializzazione ed inculcare credenze, sistemi di valore e convenzioni di comportamento. In questa triplice distinzione, a mio parere, la prospettiva hoferiana si colloca nelle prime due tipologie, cioè in qualche modo offre degli sguardi abbastanza interessanti sulla, su quello che è un po' un modello e che in parte la lettura del 74 di Wolf e Cole sulla frontiera invisibile aveva sottolineato e molto sostenuto, cioè la dimensione, una dimensione identitaria che si fissa e si in qualche modo si costruisce e anche si irrigidisce poi in passaggi che saranno poi qui in modo particolare quelli epocali tra la fine degli anni 80 dell'Ottocento e gli anni 90 dell'Ottocento con dei picchi intorno al 96, poi le riprese ancora al 1909 che corrispondono addirittura alla monumentalizzazione, no? Così pervicace nel nostro territorio di alcuni simboli di identità contrapposte, il monumento a Dante a Trento, il monumento a Walter a Bolzano, il monumento a Hofer, poi a un certo punto a Merano che viene eretto nel 1893, poi la prima parte, poi nel 1909 l'inaugurazione ufficiale e poi ovviamente quello che saranno le difficoltà incontrate all'interno di questo processo anche di forte monumentalizzazione identitaria invece dagli esiti drammatici della Grande Guerra con questo inglobamento forzato del territorio su tirolese all'interno dei confini nazionali dello Stato italiano e quindi con una nuova variante poi del tema hoferiano che magari andremo a vedere successivamente. Certamente ci sono degli elementi che fanno riflettere proprio sulla prevalenza di queste due tipologie, in parte perché la figura di Hofer già tra i contemporanei in realtà è una figura piuttosto, piuttosto complicata, non per nulla così automaticamente e immediatamente sostenuta e diffusa nella sua fisionomia all'interno di tutti gli strati sociali, all'interno di tutti i contesti. Tanto più che ovviamente, come noi sappiamo, è ben difficile che all'interno della fondazione di questi elementi identitari collettivi vi sia una sorta di spontaneità popolare che agisca come forte catalizzatore, come forte veicolo. Può essere in qualche modo talvolta una, diciamo, una causa agente concomitante intorno a alcuni temi, ma certamente è prodotto di una produzione intellettuale, e la produzione intellettuale si articola intorno alla produzione scritta, letteraria, la produzione iconografica visiva, e qui noi ci siamo voluti soffermare sulla figura di Franz von Defregger, che è stato in qualche modo forse l'artefice ultimo e più efficace per quanto riguarda una iconografia hoferiana nel diventare, diciamo, tra gli anni 70 e gli anni 90 dell'Ottocento, l'alfiere stesso dal punto di vista delle arti visive della costruzione, poi abbiamo visto, di un apparato, e poi lo vedremo attraverso anche le immagini, di un apparato iconografico solido, robusto, fortemente coesivo, non contraddittorio, e che addirittura diventerà quasi una sorta di canone addirittura per quello che saranno anche tutte le successive riprese poi del tema hoferiano, dalla statuaria alla riproduzione delle cartoline popolari fino alle recentissime che naturalmente è stato a San Leonardo in Passiria, insomma sa benissimo come c'è tutta una costruzione di un apparato museale che ruota di fatto in gran parte attorno alla riproposizione di quel modello di riferimento, di quel canone che lì si è fissato. Ma tra i contemporanei, o perlomeno a ridosso di poco tempo dagli eventi hoferiani, quindi dal 1810 in poi, dopo la fucilazione a Mantova del condottiero contadino tirolese, la figura fu piuttosto controversa, non fu così semplice l'operazione di assorbimento da parte della corona asburgica, e come vedremo presentò anche degli elementi piuttosto contraddittori anche all'interno di questo processo. Mentre invece la ripresa forte del tema hoferiano avviene in una seconda fase attraverso anche, diciamo, un passaggio negli anni 30 piuttosto significativo e che poi andremo a rivedere. Riferendoci ancora un attimo brevemente al punto di partenza, dallo spunto di questa sera, un po' un'iconografia quindi che nasce per una invenzione non vuol dire naturalmente un processo artificioso, ma vuol dire naturalmente anche una costruzione, certamente un apparato che viene istituito, costruito, irrobustito, e che non per questo non presenta una sua autenticità dal punto di vista naturalmente dell'essere un oggetto storico che effettivamente si istituisce e si pone a un certo punto. Certamente c'è da dire che forse una peculiarità dell'apparato anche iconografico del tema hoferiano, e in parte poi che ricade un po' a pioggia su tutto un po' il modello delle Schutz & Compagnie locali, insomma, è in questo senso l'elemento è di forte differenziazione rispetto al modello in gran parte analizzato da questo ottimo lavoro della storiografia britannica, cioè il modello scozzese, il modello anche gallese, qui viene analizzato, che direi ancora forse più interessante, è che lì prevalse, possiamo dire, un'impostazione di tipo letteraria e forse letterario-centrica, un paradigma molto legato alla cultura anche già settecentesca, il mito ossianico, Macpherson, con tutta una impostazione che nacque con questa forte anche, diciamo così, capacità di un'elite intellettuale di scrittori, di letterati, di pubblicisti, spesso sono dei letterati non propriamente professionisti, sono anche un po' degli avventurieri della penna, ma certamente prevale la cultura scritta rispetto alle fonti invece visive. Nel contesto hoferiano forse la cosa è un po' rovesciata, nel senso che concorre anche qui questa forte letteralizzazione, chiamiamola così, estetizzazione anche se vogliamo, della sfera politica, che è uno dei caratteri proprio della politicità ottocentesca, questo continuo spostamento da un ambito di carattere politico-istituzionale a un ambito invece filosofico, letterario, storicistico, legato fortemente anche all'attenzione e a un richiamo sempre fortemente al valore fondativo del passato storico, ma da interpretarsi sempre in ambito politico. Qui forse prevale invece un altro tipo di modello, cioè il tema euferiano, questa è un po' una riflessione che offrirei come spunto magari anche di discussione, di confronto, è forse più un elemento in negativo, cioè si istituisce più per mancanza che per addizione, è forse più costruito per scavo che per, possiamo dire, per somma progressiva, nel senso che lo si può vedere per esempio rispetto a un paradigma fondativo che è molto esplicito in molti elementi identitari collettivi tra 8 e 900, che è il mito delle origini, l'ancestralità. C'è nel modello del mito delle Highlands scozzesi, esiste in molti altri modelli anche di nazionalismi vari europei che sono più o meno espliciti nei propri richiami a una sorta di atavismo originario, di Urkultur fondativa, che è legata a un'Urgemeinschaft originaria. Qui invece questo elemento non c'è, c'è in qualche modo un elemento più fissativo, cioè si fissa un'immagine che è quella del contadino tirolese agli inizi dell'Ottocento e non presenta particolari elementi di ricerca di originarietà, in questo senso non sembra porsi un qualche pastiche come si trova altrove, per esempio, di passato remoto e di una sorta di pseudo presente in cui c'è questa specie di flessione temporale per cui si spiega il presente col passato remotissimo. L'ossianismo è stato un fenomeno di questo tipo, ha avuto un ruolo, una funzione fortissima in molti movimenti romantico-nazionalisti, non solo anglosassoni, non solo filogaelici o cose di questo tipo. Il mito ossianico nella letteratura, nella cultura ad esempio italiana, anche del patriottismo italiano primo ottocentesco, è stato fortissimo. Qui manca quasi completamente questo elemento, a mio parere, perché in qualche modo il processo fu più complesso, perché è un doppio movimento. Da una parte un elemento di maggiore, probabilmente, come io lo offro come chiave di lettura ipotetica, di maggiore persistenza della cultura rurale, cioè bene o male manca quell'elemento di industrializzazione più forte, più rampante, più erosiva, corrosiva, che in qualche modo in altri momenti della costruzione dei temi identitari nell'età moderna e contemporanea invece prevale, viene limitata da una comunque persistenza della cultura rurale che per molti aspetti difficilmente si fa assorbire dentro alcuni modelli. In caso direi che un po' la cartina di tornasole è la figura di Joseph von Hohrmeier, che in qualche modo è uno dei grandi artefici addirittura del progetto hoferiano all'inizio, e uno addirittura degli artefici poi della costruzione invece di un'identità di Hofer post mortem quasi negativa. La pubblicazione di un libello anonimo ma ascritto comunemente alla figura del barone austriaco indica bene un po' questo elemento, cioè l'aspetto quasi di estraneità a un certo punto, se non di schietta ostilità, di settori intellettuali dell'ambiente del funzionariato e dell'amministrazione asburgica, fortemente filo istituzionali ma anche fortemente legati a un proprio progetto di modernizzazione dell'apparato, che a un certo punto addirittura avverte la necessità di straniarsi rispetto al tema hoferiano, lo avverte come qualcosa di esterno e di estraneo, ma questo processo non riesce, ormai si è avviato un meccanismo tale che già negli anni 30 si assiste poi a una fissazione di una figura, e da questo punto di vista mi sembra che appunto questo argomento qui sia abbastanza interessante. E così anche confermato forse da un altro lato, l'aspetto sfuggente poi della figura di Hofer nei diversi momenti storici e la difficoltà di inglobarlo poi completamente ed esclusivamente a un ambito di carattere politico istituzionale o di movimenti di massa, ecco, perché in effetti è singolare, perlomeno è interessante notare che se un tempo alla fine dell'Ottocento la stessa erezione del monumento hoferiano meranese ha una schietta funzione, possiamo dire, platealmente filosburgica in un momento di grave crisi interna della stessa stabilità dell'apparato imperiale, ma minacciata non tanto dall'esterno, da qualche altra nazione o da qualche altro paese in conflitto, ma minacciata soprattutto dall'interno, dalle forti spinte grandi tedesche, le grandi spinte di un istanza pangermanista neppure camuffata o celata, quindi da una parte col grande nemico interno che soffia fino nel cuore stesso degli ambienti intellettuali viennesi, no? Il grande miraggio di costruire una grande Germania che attira molti settori giovani intellettuali alla fine dell'Ottocento, o farsi presto, viene utilizzato in qualche modo nel tentare di riaffermare invece questa forte unitarietà territoriale che la Tirolertum incarna in qualche modo, no? Col Gott Kaiser und Vaterland, in qualche modo fissato, emblematizzato intorno all'immagine dell'Hofer che non rinuncia mai alla fedeltà come valore assoluto alla corona asburgica, ma di lì a poco tempo l'immagine hoferiana non potrà più essere ridotta semplicemente a quello, nel senso che io considero comunque importante il riferimento del gruppo di resistenza locale di lingua tedesca al nazifascismo, l'Andreas Hoferbund, con tutti forse anche i limiti operativi e talvolta addirittura ideologici, se non politici, insomma, del gruppo di Egartner e di Folger, che però ebbe la grande capacità, in un certo senso anche quasi in maniera automatica e schietta, la volontà di riferirsi al tema degli Freiheitskämpfer hoferiani in maniera quasi naturale, e l'operazione fu un'operazione assolutamente intelligente e assolutamente condivisibile all'interno della cultura, di vasti settori della cultura intellettuale anche, e non tanto conservatrice, anche progressista di lingua tedesca durante il tremendo periodo. Quindi direi che questo, anche qui questo è un'ulteriore conferma forse che qui ci troviamo di fronte a questo elemento forse fissativo che complica un po' il modello di riferimento di Hobsbawm, che naturalmente come tutti i grandi modelli teorici deve essere anche ripreso, sviluppato e forse anche semplicemente utilizzato. Penso che si possa utilizzare quel paradigma interpretativo se non altro su un piano, nel senso che ci fa riflettere sul fatto di come l'elemento istituzionale, certamente nella grande politica ottocentesca, ha avuto un ruolo, se non determinante, certamente un ruolo molto pervasivo all'interno della sfera collettiva. Nel nostro contesto forse addirittura più pervasivo rispetto ai grandi processi di trasformazione economica, insomma, no? Dove forse il ruolo delle grandi dinamiche di massa nel contesto tirolese, anche del Tirolo di lingua italiana, fu meno veemente, fu più mediato dal permanere di forme di organizzazione anche comunitaria, anche societaria, dal basso, non facilmente, diciamo così, così, di cui liberarsi all'interno di un processo di espulsione tipico del grande industrialismo europeo ottocentesco, ma che in qualche modo assorbirono nelle loro diverse forme anche questi elementi, anche queste spinte di trasformazione. Quindi in questo elemento di forte conservazione, non conservatrice necessariamente, ma certamente di permanenza di elementi, ecco, certamente il tema hoferiano è un tema che costituisce a un certo punto possiamo dire così, un convergere di diverse istanze. Certamente l'istanza politica è però, io credo si possa dire tranquillamente, dominante, nel senso che naturalmente a partire dall'esumazione della spoglia di Hofer ad opera di cinque ufficiali dei Kaiserjäger che la trafugano poi nel 1837, la portano all'Hofburg di Innsbruck, pongono addirittura di fronte alla corona il fatto compiuto, quindi costringono la corona asburgica a inseguire addirittura questa sorta di sacralizzazione di una figura in realtà non molto familiare alla corte asburgica, perché ricordava eccessive contraddizioni del comportamento e dell'atteggiamento tenuto nel febbraio del 1810, stavano preparando le nozze di Napoleone con Maria Luigia, come si diceva al tempo, e Hofer veniva fucilato a Mantova. Quindi la difficoltà anche di in qualche modo di impadronirsi di questo testimonia che in qualche modo la corona non fu l'unico artefice di questo processo, ma certamente vi è il concorso poi di diverse componenti della società austriaca che, questo direi forse è una delle cose più interessanti, tra le più interessanti, che certamente raccolgono il tema ofiriano in chiave, tra virgolette, modernistica, cioè, e qui forse parlo ogni tanto di più l'iconografia, purtroppo non ho avuto il modo di riprenderla poi all'interno del PowerPoint, di cui ci si vedrà solo l'opera di Frege, ma lo butto solo lì. A mio parere ci sono un paio di riprese iconografiche della figura ofiriana, forse addirittura tra le più arcaiche, che sono altrettanto e forse più significative addirittura di quelle di von de Frege, che saranno appunto tra il 76 in poi. Ci sono sul computer Ecco, della ci sarà biblioteca, benissimo, se che vuoi sarà quello vedo. soprattutto Joseph Anton Koch, che è forse uno dei più interessanti perché è un autore che molto vicino poi a quello che sarà l'ambiente dei Nazareni romani, è considerato un po' lui si considerò una sorta di fratello maggiore di questo ambiente di intellettuali di lingua tedesca trapiantati sui colli romani, che tra il buon vino di Frascati e le belle donne laziali si persero un po' per strada anche effettivamente, ma certamente raggiunsero questo sogno di purezza comunitaria dai lunghi capelli che fa anche molto così, fa stringere il cuore, insomma, no? Un po' dei giovani hippie ante litteram, tardo neoromantici, con un coacervo anche di istanze molto diverse, una volontà di cambiamento, di innovazione nella regressione, no? E qui, però ecco, Koch, che non fu ascrivibile tutto il movimento dei Nazareni, ma che li anticipò addirittura per alcune istanze, questo interessantissimo olio su tavola, che è uno dei primi addirittura prodotti, perché nel 1825 viene offerto al Ferdinandeo di Innsbruck, che lo respinge perché sente puzza di un quadro polemico, lo vede quasi come una sorta di esaltazione delle libertà popolari che non piacciono per nulla nella fase più austera della restaurazione metternichiana, insomma. E quindi è interessante notare che, ecco, per esempio, Hofer appare qui forse per la prima volta con con quel ruolo, quella fisionomia anche di figura popolare di riferimento e con dei caratteri anche iconografici che non sono ancora così standardizzati in un certo senso. Così anche alcune altre figure come Speckbacher, altri della cerchia, tranne il padre Haspinger, che qui ovviamente con la barba rossa e il saio, insomma, diventa facilmente una figura immediatamente riconoscibile e fortemente stereotipa, insomma, quindi non particolarmente originale nella fisionomia. Esiste un ritratto di Haspinger in età matura che ne mostra invece una fisionomia molto diversa, negli anni poi in cui si spretò, come accadde poi dopo la fine del periodo insurrezionale, e fece la sua vita di funzionario poi asburgico. Ecco, qui però il quadro di Koch è un quadro invece di esaltazione, quasi anche di una sorta di, appunto, di spontaneità popolare, non necessariamente völkisch, ma anche un po' diciamo sfuggente in questi suoi caratteri, in questa sua fisionomia, con un lato un po' più selvaggio forse, e direi abbastanza attraente, che non a caso inquietò la corte imperiale, insomma, perché l'esigenza di, diciamo, di maggiore rappresentazione dell'ordine qui incorreva invece in una interpretazione che era piuttosto difforme. La costruzione più efficace sarà quella di De Frege, forse proprio perché ormai è una costruzione non solo, diciamo, cronologicamente molto lontana dagli avvenimenti, ma molto più rispondente a quello spirito che non fu forse tanto austriaco asburgico, ma nasce legato all'Accademia di Monaco, nasce legato ai grandi temi di un realismo non più di protesta, non è realismo sociale, anche se forse, come si legge in qualche biografia di De Frege, negli anni 60 una breve frequentazione con lo studio di Courbet forse lo ebbe, ma certamente non lasciò alcun segno politico sulla fisionomia del pittore, che ormai si avviava a diventare, comunque era ormai un pittore accademico a pieno titolo. Però questo suo realismo più piccolo borghese, in cui viene fissato in qualche modo un canone del contadino tirolese, che è molto più borghesizzato rispetto al modello di Koch, ne farà naturalmente un veicolo di grande successo e di grande diffusione a livello di riproduzione ovviamente iconografica, e direi anche non secondariamente anche in virtù del fatto che dopo gli anni 80 la stampa, con i nuovi sistemi di riproduzione a stampa delle immagini e anche a colori, policromia, diventa molto più facile, molto più a portata di mano degli editori, e quindi si diffonde con una straordinaria velocità fino alle riproduzioni delle cartoline, fino alle riproduzioni dei quadri domestici che si affiggono naturalmente in salotto, in cui ci può stare una riproduzione del Spickbacher che incontra il figlio a fianco dello Spitzweg col poeta che schiaccia la pulce nella soffitta, cioè dentro a questo spirito che è stato definito Biedermeier, qui ormai è tardo Biedermeier perché ormai siamo nella seconda metà del secolo, e che poi avrà le sue punte massime negli anni 80 e 90, insomma, quando ormai gli eventi tirolesi saranno completamente remoti, in realtà in una fase storica in cui le rivendicazioni fieramente indipendentistiche dell'antico Tirolo storico si sono completamente estinte, e che quando qua e là riemergono ormai sotto una fisionomia nuova, con istanze anche talvolta abbastanza preoccupanti. Sono gli anni in cui l'associazionismo, come ci ricordava un bel lavoro di Leopold Steurer qualche anno fa, ginnico anche tirolese, comincia a essere così sensibile ad alcune istanze pangermanistiche e antisemite anche nel contesto territoriale, quindi dove in effetti il tema offeriano si è in gran parte smontato di quello che poteva essere il suo contenuto, la sua valenza anche possiamo dire più fortemente politica. Diventa un canale, come vedremo poi magari in dettaglio brevemente, di una costruzione di una iconografia di una Tirolertum patetica, molto io direi teatrale da questo punto di vista, non necessariamente grottesca, con un'alta qualità anche tecnica, e che solo forse nelle riprese poi novecentesche di Edgar Linz ritornerà ad avere però quel pathos più tragico, anche più selvaggio, che in qualche modo si nasconde tra le pieghe di quello che fu la particolarissima esperienza offeriana. Ecco, io qui intanto concluderei così in questo momento, poi magari riprenderemo più avanti più nel dettaglio alcuni passaggi, se avete la pazienza di ascoltare. E passerà la parola a Andrea. Prometto che il mio intervento sarà più breve della sua introduzione. È un'introduzione ampia. No, la rivolta contadina del 1809, di cui quest'anno ricorre il bicentenario, è importantissima per questa terra, perché è stata fondamentalmente una rivolta di 6 mesi con circa un migliaio di morti e 2000 edifici distrutti, è stata però molto piccola relativamente a quello che invece sarà tutto il movimento antifrancese e antirivoluzionario del resto d'Europa, però comunque ha al suo interno tutte le caratteristiche tipiche di questo territorio. Ad esempio, viene portata avanti per motivi di tradizione, di religione, quindi c'è un forte sentimento religioso alla base, c'è un forte legame con quello che erano le tradizioni contadine e culturali che la dominazione bavarese stava cercando di cancellare e di rivoluzionare contemporaneamente. E poi viene condotta da persone di lingua tedesca, Hofer in primis, persone di lingua italiana come i trentini che avevano appunto aderito, e una parte anche di ladini delle valli Badia e Gardena, per cui tutti e tre i gruppi linguistici di questa nostra terra combattono più o meno all'unisono per un obiettivo comune, che è quello non tanto della piccola patria del Tirolo autonomo, come spesso oggi viene indicata la rivoluzione del 1809, bensì per un ritorno all'Austria, del mantenimento di quelle che erano le tradizioni precedenti. Per chiarire un po' meglio la situazione bisogna fare un passo indietro, e l'elemento fondamentale in questo è chiaramente la rivoluzione francese. La rivoluzione francese del 1789 dà una spinta ideologica e laicista di novità in tutta l'Europa, e sconvolge quelli che erano le tradizioni, gli aspetti culturali fino a quel momento mantenuti da tutta l'Europa. la rivoluzione francese porta poi Napoleone, ci sarà quindi la guerra tra Francia e Inghilterra, che è fondamentale in questo momento, quella del 1802, dal 1802 al 1805, perché con la straordinaria vittoria di Austerlitz da parte di Napoleone, il Tirolo, che comprendeva il nord Tirolo, Vorarlberg, il sud Tirolo, cioè l'Alto Adige e il Trentino, perché non bisogna mai dimenticare che era questa, quella che oggi viene chiamata macro regione, l'Euroregio, così, passano dall'impero asburgico, viene ceduta alla Baviera. Baviera, dove c'era Massimiliano Giuseppe I di Wittelsbach, che è un sovrano illuminista, affida qualche anno dopo l'incarico di primo ministro a Maximilian von Mongellas, che era un laicista puro, una persona che tra le varie riforme che ha portato in Tirolo c'è anche quella dell'abolizione delle feste religiose, per cui la messa di Natale non viene cancellata, la messa di Pasqua pure. Noi ricordiamoci che allora come oggi, percorrendo i sentieri di montagna, c'erano i crocifissi dove la gente si fermava e pregava, per cui non era una cosa così banale questo cambio radicale di ideologia. C'era il passaggio delle nomine dei vescovi, i vescovi non venivano più nominati da Roma dalla Chiesa, ma dovevano essere approvati dal sovrano bavarese. Questo per quanto riguarda l'aspetto religioso, che comunque per una società che era contadina, profondamente legata a quello che era il ciclo del lavoro, che chiaramente era scandito dalle feste religiose, dai cicli della vita di chiesa, perché il campanile segnava comunque quali erano le fasi della giornata lavorativa, e quindi è un cambiamento radicalissimo per quanto riguarda queste persone che comunque non erano abituate a una cosa di questo genere. Non è solo comunque l'elemento religioso l'elemento scatenante della rivolta del 1809. Ci sono motivi economici, ovviamente, come spesso accade quando cambia la sovranità di uno Stato, vengono introdotte delle riforme economiche, sia la svalutazione della vecchia moneta, nuove tasse, nuove imposte, per cui anche questo contribuisce chiaramente a creare un malcontento nei confronti di quelli che sono i nuovi padroni, diciamo. Oltre a questo, altro elemento che sta alla base poi della Grande Rivolta è l'abolizione cioè la reintroduzione del servizio militare, perché dal 1511 fino al 1809 i giovani tirolesi non dovevano prestare servizio militare attivo sotto l'impero asburgico, ma rimanevano nel luogo sotto le compagnie degli Schutzen, che erano compagnie territoriali. Quindi anche il fatto di prendere i giovani più forti e portarli in Austria o in Ungheria, perché comunque l'impero era molto, l'Ungheria ancora no, però comunque era molto esteso, e era una cosa che era troppo, troppo diversa rispetto a quello che era il passato, e quindi questo scatenava rivolte. Il territorio del Tirolo era un territorio che conteso, lo è stato fino al 1918, quando è passato in Italia, nella parte diciamo sud del Tirolo, ma già prima appunto dall'impero asburgico passa alla Baviera, dalla Baviera poi dopo ritornerà all'impero asburgico, però dal 1360 era territorio austriaco, asburgico, e quindi comunque c'era un legame molto forte con questo casato, e si voleva mantenere. Comunque abbiamo all'inizio tra il 1800, tutte queste riforme vengono introdotte dal 1806 fino al 1809. Con l'inizio del 1809 la situazione è molto tesa, vengono addirittura arrestati i vescovi di Trento e di Bressanone, e ci sono alcuni personaggi influenti della società, tra cui Andrea Sofer, che vengono sempre più spesso contattati dalla corte asburgica per preparare una rivolta. Una rivolta che appunto il 9 aprile del 1809, con la dichiarazione di guerra del Burgo alla Francia, scoppia in tutta la regione con un'immediatezza incredibile, dalla Valpassiria fino a Brunico, fino a dalla parte di Vienna, quella zona lì, insorge tutti questi contadini, e che in pochissimi giorni riescono a risalire fino a Innsbruck e a conquistare Innsbruck, che è la capitale del Tirolo, e cacciare le truppe franco-bavaresi. È una rivolta improvvisa, inaspettata, che ha subito questo grandissimo successo, ma che purtroppo per gli insorti deve scontrarsi poi con quelle che sono le ragioni di Stato. Per cui qualche tempo più tardi viene, c'è una vittoria, adesso stavo cercando, a Wagram, dove gli austriaci perdono, e allora Innsbruck deve essere riconsegnata ai bavaresi, quindi c'è un continuo capovolgimento di fronte, la città viene occupata, rilasciata, liberata di nuovo, rioccupata nuovamente. Insomma, adesso non volevo entrare nel dettaglio con le date, perché ci sono appunto le battaglie si svolgono da, diciamo, circa da Rovereto fino a Innsbruck, e poi fino a Dubiaco, al Passiria, per cui quasi tutto il territorio insorge con battaglie, vi sono anche episodi piuttosto violenti e cruenti, ci sono del brigantaggio, soprattutto nella zona della Valsugana da parte di alcuni gruppi di trentini. Ci sono dei momenti di violenza assoluta a Innsbruck da parte dei tirolesi contro i soldati tedeschi, c'è la parte c'è un luogo poco prima di Lipiteno che viene chiamato il sacco dei bavaresi, perché lì erano stati massacrati le truppe in maniera abbastanza... E insomma è anche cruenta come periodo. Vi sono quattro battaglie fondamentali alle porte di Innsbruck, da fine maggio, dal 25-29 maggio, poi 15 agosto, comunque la più importante, che consegna Innsbruck e Tirolo ad Andrea Sofri, che a quel punto viene nominato reggente del Tirolo, fino al 31 di ottobre, con l'ultima battaglia sempre alle porte di Innsbruck, al Berghise, che è più o meno dove c'è il trampolino di salto delle Olimpiadi, in cui lì viene sconfitto Hofer, le truppe si disperdono e Hofer e i suoi sono costretti a impiegare in su Tirolo. Ma oltre a queste, appunto, ci sono decine di altri scontri più piccoli alla Vis, come a Rovereto, a Trento, le truppe entrano a Bolzano, occupano la città, dopo qualche giorno vengono sconfitte circa intorno ad ora, allora tornano indietro, c'è un continuo movimento di capovolgimento di fronti di questa situazione poco chiara. Fino appunto a quando le truppe il 31 ottobre vengono sconfitte, sono rotte, tornano nelle proprie case, e a questo punto Andrea Soffer, che era il comandante di queste truppe, che aveva un forte carisma sui suoi soldati, sui suoi compagni di guerra, viene quasi scavalcato da alcuni personaggi, tra cui padre Raspinger, che probabilmente era proprio il più esaltato di tutti quanti, che lo portano a continuare con alcune piccole battaglie, soprattutto nella zona della Passiria, quasi tutte lo vedono sconfitto, e a ripiegare in montagna sopra Mosul, la sua locanda, fino a nascondersi aspettando un insperato aiuto asburgico, che non arriverà mai, perché poi viene tradito da un valigiano, consegnato ai francesi e poi trasportato a Mantova e lì fucilato. Questo sintetizzando molto quello che è tutta la vicenda del 1909. Quello che è importante è vedere come la figura di Andrea Sofer si adatta molto bene a quello che diceva Andrea prima, la mitizzazione, per cui anche il fatto che non esistono delle cronache puntuali contemporanee ad Andrea Sofer, perché le uniche ricostruzioni, oltre appunto le notizie di cronaca che giravano all'epoca, c'è una bellissima descrizione di un avvocato di Rovereto, che adesso tu mi metti col nome, non si ricorda, dopo lo cerco e vi dirò, che parla delle gesta di Andrea Sofer con toni molto trionfalistici, dice che il Tirolo si sollevò come un solo uomo, e quando Andrea Sofer parlava tutta la valle rimaneva in silenzio ad ascoltare e ad apprezzare le parole. In realtà non era proprio così, ci sono degli aspetti anche negativi in quello che era poi il proclami di Andrea Sofer. C'è una nel momento in cui a maggio libera per la prima volta Innsbruck, esiste un proclama che parla dei malcostumi delle donne, per cui dovevano coprirsi molto di più e comportarsi in maniera più decente rispetto a quanto era successo fino a poco fa. Qui avevano comunque degli aspetti anche di costume che erano poco diciamo illuminati o consoni. Però appunto dicevo, è una figura e ha un percorso che si presta molto bene alla mitizzazione, perché anche le cronache dell'epoca subito partono con questi raccontando degli episodi abbastanza curiosi, tipo il 9 aprile, appena iniziata la rivolta, si trovano le truppe di Andrea Sofer a combattere contro le truppe bavaresi prima di scendere verso Vipiteno dalla Valpastiglia, poco dopo il passo Giorgio. E si trova in un momento di stallo, si fronteggiano per ore e ore, finché viene creato un trucco, riempiono un carro di fieno al cui interno sono nascosti dei soldati, il carro viene guidato da una procace fanciulla, che era questa Caterina Lanz. Gli ultimi studi dicono appunto che viene dalla Valbadia, tanto per quadrare il cerchio, dicendo che tutti i gruppi linguistici avevano partecipato a questa rivolta, e chiaramente i soldati bavaresi la fanno passare. Nel momento in cui passano escono i moschetti luccicanti, come riportano le cronache di quegli anni, e conquistano, questo è chiaramente il cavallo di Troia. Ma poi vi sono anche altri episodi, quando Andrea Sofer viene catturato, chiede la liberazione della moglie, del figlio e del compagno che era con lui nascosto sulle montagne, viene tradito per 11.000 fiorini da parte di un suo valigiano che le cronache raccontano come uno comunque poco pulito e sempre losco, che faceva il bracconiere, cosa che ovviamente facevano tutti a quell'epoca, però comunque questo era significativo per dire era un personaggio negativo. Oppure poi, mentre viene trasportato a Mantova, c'è un quadro anche di De Freger con Andrea Sofer in catena, viene portato e i cittadini che gli portano i fiori, lo omaggiano, ma durante la trasferta una sera viene a dormire in una stalla, eccetera, e prende fuoco della paglia, per cui i suoi soldati, i suoi carcerieri che dormivano in quel momento potevano rimanere uccisi, lui potevano invece scappare, invece lui li sveglia per salvare loro la vita, e quindi sono tutti elementi, sino al momento della fucilazione, che forse è quello più emblematico, perché allora Andrea Sofer viene portato a Mantova nel cortile della caserma, viene fucilato e la prima scarica non lo uccide, allora lui si alza e dice mirate al cuore questa volta, e lì la seconda scarica lo uccide. Le cronache contemporanee non riportano questa cosa, però su quasi tutti i libri e la storiografia di Andrea Sofer riporta questo episodio quasi come se fosse vero. Poi nel film con Tobias Moretti era ancora più esaltata la cosa, molto più lunga e molto più sofferta, però comunque è entrato nel mito di questo personaggio. E mito che viene alimentato subito, perché fin dal 1810 alcuni, diciamo, venditori ambulanti giravano le valli dell'Alto Adige, sì, in special modo, vendendo ciuffi di barba e vestiti dicendo che fossero di Andrea Sofer. Sulla la realtà di questa cosa non si sa, però comunque la gente li comprava, e quindi il mito veniva subito creato e adattato. Fino ad arrivare poi, come diceva Andrea, ai quadri di uso domestico, perché chiunque di noi che sia andato in montagna a fare un tour, che devono mangiare le castagne, eccetera, spesso nello studio ha visto il quadro di Andrea Sofer, un episodio del 1809. Oggi, per esempio, in televisione c'era un servizio sui referendum di democrazia attiva, e alle spalle di uno dei redattori c'era un quadro di Andrea Sofer, per cui effettivamente si trova. Comunque, quello che preme dire è che rispetto strumentalizzazione che viene fatta oggi di Andrea Sofri come eroe pangermanico o come eroe dell'autonomia di questa terra, dell'autodeterminazione, o come anche un movimento politico italiano dice eroe delle piccole patrie, quindi vicino alla creazione del mantenimento della Padania e di altri territori di questo genere, andrebbe preso e analizzato in maniera diversa, perché effettivamente non era proprio così. Lui era un oste, un contadino, oste nel senso non di quell'idea del barista che abbiamo oggi, cioè non era un oste di paese dove la gente andava, ma era proprietario di un'osteria di passaggio, per cui era in continuo contatto con gente di diverse provenienza. Era commerciante di cavalli, da giovane aveva studiato in Trentino, quindi sapeva perfettamente l'italiano. Era molto conosciuto anche a Mantova, dove aveva commerciato dei vini, tanto che si dice che i cittadini di Mantova avevano fatto una colletta per liberarlo. Il suo avvocato era un avvocato d'ufficio, ma che si era offerto volontario per cercare di salvarlo. Era anche ebreo. Sì. E la cosa più inquietante della fine che fa Andrea Sofer è nella lettera che Napoleone manda al figlio, in cui dice: figlio mio, vi avevo ordinato di far venire Hofer a Vissenes, ma visto che è a Mantova, date l'ordine di formare una commissione militare per giudicarlo e che venga fucilato laddove giungerà il vostro ordine, e che tutto questo sia questione di 24 ore. Quindi processo farsa in cui lui era praticamente segnato, ma lo sapeva, anche perché l'ultima lettera che manda ai suoi familiari, ai suoi compagni è da una parte straziante, dall'altra però consapevole di quello che era la sua situazione. Dicevo però dei suoi lati negativi, perché appunto, oltre al fatto di essere stato strumentalizzato nell'ultima fase della rivolta e probabilmente anche in altri momenti, in fondo la casa alburgica che gli aveva garantito diciamo quasi un salvacondotto per fuggire eccetera, poi non ha fatto quasi niente, nonostante anche per la questione del matrimonio tra le due famiglie, però è uno che è stato usato anche dalla casa Sburgica, è stato usato da quelle ali estreme che volevano ritornare sotto Friburgo, e probabilmente non è riuscito mai ad imporsi come avrebbe voluto. Lui è stato uno stratega militare, perché comunque le battaglie che ha combattuto, a parte l'ultima eccetera, sono state quasi tutte vittoriose, quindi per essere una persona che si era fatto le ossa sul campo militare, nelle compagnie di Schützen locali eccetera, era una persona che aveva avuto degli ottimi risultati. Carisma doveva averlo sicuramente, se no non sarebbe riuscito a trascinare tutta la popolazione altoatesina e a farsi riconoscere come comandante unico. Certo è che poi alla fine non era più, diciamo, non tanto lucido quanto consapevole della situazione in cui si stava infilando, probabilmente. E anche il fatto di essere poi fuggito in montagna, nascosto a cercare e a sperare in un aiuto che poi non arrivava, probabilmente denota anche quanto alla fine fosse lontano dalla realtà, dalla sua situazione, dal suo pensiero. Intanto direi mi fermerei qui. Sì, volevo far vedere le immagini. Sì, adesso mettiamo un po'. Sì, ero anche lì, però, perché non mi ricordo più in che ordine sono state messe. C'è anche quella di sotto, ma no, se c'è prima quelle altre. Allora, un attimo che vi facciamo vedere prima. Risorse del computer. Ah, risorse di rete aperte. Ho sbagliato. Questo qui. Questo qui. Allora qua. Allora vediamo. C'è un po' di tutto qua dentro. Allora, questo è, se vuoi dire qualcosa tu, se no vado avanti con... Sì. Beh, qui allora abbiamo delle immagini delle battaglie alle porte di Innsbruck, del Berghisel appunto, Adesso non c'entra niente, questo è un monumento, Andrea. Sono molto piccole, mi spiace. Questo è l'arresto in montagna, appunto, il 27 gennaio del 1810. Questa è una delle cartoline Liebig d'inizio secolo e si vede come la figura di Andrea Soffer viene comunque usata e strumentalizzata anche per altri fini, non solo quelli. Questo è un ritratto. Questa era la situazione, appunto, il Tirolo, come era compreso Sud Tirolo, Nord Tirolo e Vorarlberg. Questo era l'impero asburgico che, come vedete, arrivava fino alla Moldavia. Questo non so che cosa fosse, In no, sempre in particolare particolare della zona qui, quando diventava l'impero bavarese. bavarese. Questo era la pace di Presburgo. Massimiliano I, questo Montgelas. Questo appunto è uno dei ritratti di Andrea Soffer in cartolina che si trovano. Qui Sono abbiamo, più arcaici questi qua, sì, più vecchi, sì. questo è quando Questo invece è riceve, già De Freger. sì, questo è De Freger quando riceve appunto il comando del generale del Tirolo, e quindi dopo la battaglia di agosto del Berghiso. Ecco, questa è una di quelle più che vedete anche la bandiera del Tirolo, era verde, bianca, verde con l'aquila al centro, non era quella che conosciamo adesso, bianca e rossa. Che Ecco, Koch questa è infatti quella di. riportava Non è effettivamente no, non è correttamente. Questo qua questa. è Koch, sì. È una Dietro c'è riproduzione di padre quello di Koch, Haspinger sì. dietro, vestito da frate col È una cappuccio. riproduzione di quella di Koch, mentre quello di prima era di Joseph Arnold, il Sì. giuramento alla bandiera, che è Aspetta, del torniamo. 1838, quello di prima. Però Questo sono qua. le versioni, appunto, sono queste litografie che daranno un'enorme diffusione, no, all'iconografia hoferiana già negli anni 50 e 60 dell'Ottocento, no? Introdotta la nuova tecnica di questa riproduzione che permette anche la riproducibilità dei colori, quindi con un effetto molto più forte dal punto di vista suggestivo. Quindi dopo gli anni 60 c'è una diffusione in tutta Europa, cambia proprio la cultura anche della cartolina, diventa un mezzo molto persuasivo, insomma, e quindi rende anche accessibile alle tasche anche popolari un immaginario che originariamente era concepito più in chiave istituzionale, cioè doveva essere consegnato naturalmente ai luoghi deputati, no? Appunto l'Hofburg era stato il principale riferimento di molti di questi pittori intellettuali, insomma, no? Che talvolta erano persone che avevano fatto anche diretta esperienza politico-estetica, cioè alcuni di questi, come nel caso di questo Arnold, no, però ad esempio un altro vabbè, Koch anche apparteneva un po' a una cultura precedente in qualche modo, anche se era interessante perché Koch era stato prima filo rivoluzionario, era andato addirittura a Basilea e a Berna per andare in Francia, poi era rimasto abbastanza spaventato dagli effetti della rivoluzione, che non aveva ben capito, e diventa un antifrancese, però naturalmente è un antifrancesismo sempre filo rivoluzionario, patriottico, no? In un'accezione di questo Qui tipo. è interessante notare gli abiti delle persone, che non Eh sono sì. quelli tipici dell'iconografia che siamo abituati a vedere. Tra l'altro Questo qua è un tema che si incernierava c'è un po' anche con un quello che si diceva all'inizio, cappello francese, con il volto di nell'invenzione Coccarda. della figura hoferiana un ruolo molto forte ce l'ha la divisa, appunto, no? Ce l'hanno i vestiti, il tracht, eccetera, i lederhose, la bandiera naturalmente, il cappello e poi naturalmente tutti gli apparati simbolici, coccarde, fazzoletti, camicie, cinturoni, per esempio. La codificazione finale è quella di De Freger, perché in tutti gli autori precedenti non c'è praticamente nessuna contiguità, insomma, no? Nell'uso del riferimento. Anche è un po' l'affinità che io dicevo all'inizio, è col modello del kilt scozzese, no? Il kilt scozzese ha dimostrato Trevor Roper che è stato inventato da un mercante quacchero inglese, quindi negli anni 50 del Settecento. Aveva una partita di cotone indiano che non riusciva a piazzare sul mercato e insieme a, sulla base così di anche di una piuttosto complicata storia di personaggi diversi, all'inizio dell'Ottocento c'è anche Sir Walter Scott che partecipa alla truffa, eccetera, mette sul mercato un catalogo addirittura di tartan scozzesi e si inventa che il vestito originario del Highlands è quello, eccetera. Qualche erudito locale si oppone, dice no, sono tutte balle, portavano i pantaloni, si chiamano Trews, no, originari, eccetera. Questo questi qua, il tartan, il kilt, sono tutte cose moderne, sono brutte, però non, sono perdenti, perché ormai l'appello alla tradizione e l'industria fa un abbraccio fatale, e quindi si inventano il kilt. In qualche modo nella costruzione del tema hoferiano qualcosa di simile è legato al sistema del tracht, no? Quello che sono un po' gli apparati su cui Oberhauchzit a tutt'oggi, insomma, no? Inventa negozi, soprattutto in Italia, perché si vedono più tracht a Venezia o a Padova o a Milano che nel centro di Bolzano, sì, naturalmente, no? Ma è la stessa logica, insomma è anche giusto così, no? In qualche modo, perché è il turista locale un po' di lusso che vuole sfoggiare naturalmente l'abbigliamento typisch, no? Quindi, e non lesina il denaro, insomma, in questo, ma la costruzione naturalmente del Walker lussuoso con quell'impostazione che deve andare a finire anche nelle tasche della buona borghesia italiana contemporanea è legata a questo tipo di modello qua. Certamente, i pantaloni, i lederhose non hanno mai avuto un esito di questo tipo finale, questo no, però hanno avuto un esito molto simile al kilt per la costruzione del tema hoferiano. C'è un particolare che è abbastanza interessante, quasi tutti, lo si vede qua anche nell'abbigliamento, questo qua è una riproduzione sempre litografica popolare del dipinto su tavola di Koch, che cromaticamente era anche molto più bello, insomma molto più vivace, no? Però i colori sono abbastanza rispettati e il disegno è praticamente identico, no? Quello che si nota anche qui è un po' un abbigliamento che Koch si inventa, ovviamente, perché Koch abitava al tempo a Roma, si era sposato Agnesia, che era una bella modella molto contesa dai pittori nazareni, ce ne sono due o tre di queste donne leggendarie laziali con cui i nazareni si intrattenevano non solo come modelle, bisogna dire, questo si sa, insomma, c'erano dei bei bambini biondi che nascevano all'epoca sui colli laziali, e anche Koch ci mette del suo, insomma, quindi lui ormai era completamente trapiantato con quel contesto lì. Hofer lo aveva tirato enormemente, perché è un'opera questa qui che però non è sua spontanea, ma viene pagata da un ministro prussiano, il von Stein, che lo paga negli anni 20 per costruire queste immagini di Hofer con palese intento antiasburgico, cioè è un'opera su commissione che ha un committente per niente ingenuo, cioè è il ministro di Prussia che vuole disturbare anche dal punto di vista iconografico la corona asburgica, no? In un momento in cui il conflitto tra le due corone è un conflitto già latente, insomma, no? È ben lungi dal divampare quello che sarà negli anni 60, insomma, col 1866 l'Austria viene sconfitta dalla Germania bismarchiana, insomma, quella che poi diventerà la grande Germania ottocentesca, che si riunirà nella sala dei specchi di Versailles nel gennaio del 71, insomma, quindi però già gli elementi di tensione sono tutti esistenti, tant'è che infatti lui 5 anni dopo, nel 1825, questo lo offre al Ferdinand Ebel, il Ferdinand Ebel lo respinge, non lo vuole questo quadro, perché presenta un'immagine completamente difforme dai suoi intendimenti, non ha nessuna intenzione. Due anni prima avevano dissepolto la salma di Hofer, appunto, da Mantova, e già era un problema gestirla. All'inizio degli anni 30 fanno questa operazione alcuni funzionari imperiali intelligenti, a Vienna convincono l'imperatore a riconoscere la figura quasi da martire di Hofer, che viene sacralizzato, ma viene anche depoliticizzato, mentre invece qui l'intendimento era schiettamente politico. È un grande eroe popolare, è in cima al suo bel cavallo bianco, e i contadini si dilettano, come si vede, con modalità abbastanza sfrenate, insomma, i due in primo piano non stanno propriamente pregando in chiesa, tra, insomma, l'altro, quindi, con i cadaveri dei cadaveri dei francesi lì sotto sgozzati, eccetera, quindi ci sono elementi molto sangue ed ebbrezza, insomma, no? Cioè, e c'è questo elemento però anche di paradossale sfrenatezza felice, no? Perché dietro quel personaggio dai caratteri fortemente mediterranei è Speckbacher, nella riproduzione, che, no, quello dietro Hofer proprio, con un cappello da guascone, singolarissimo, cioè nel senso che non si ripresenterà più quella fisionomia lì. Ha un cappello a falda molto larga, rialzata, no? Che probabilmente in parte inventata, qui c'è un pennacchio qua, no? Anche le contadine, insomma, no? Sono un po', chiaramente, non dico che sia disneyana l'immagine, ma insomma è ben abbastanza legata a quello che un intellettuale che era di origine tedesca, trapiantato a Roma, aveva girato mezza Europa nel tempo, ecco, del Tirolo era così, in qualche modo orecchiato, sentito, ripreso. Però non è detto che sia del tutto inautentica, cioè probabilmente guardava i contadini che aveva intorno nel contesto in cui operava, e da quei contadini aveva ripreso naturalmente anche l'imitazione del vestiario, insomma. perché nessuno, ma neanche i contemporanei, esistevano dei contemporanei che avevano avuto in qualche modo la possibilità di vedere direttamente, all'opera le Schutz & Company nei momenti del conflitto. Ci sono due fratelli, Franz e Jakob Altmutter, per esempio, sono arrivati i cronisti. Ecco qua, non so se tu ce l'hai nel tuo coso, disegni. Loro sono dei disegni appena querellati, sì, molto interessanti. Questo appunto è Verghese, no? Sì, ma non è degli Altmutter, perché hanno uno stile molto più allungato, per esempio, sì. No? Sono delle figure quasi delle silhouette, no? Forse questo per esempio è uno di quelli, sì. No? Che è stato ripreso e poi sviluppato sempre qua in una forma più agiografica. Questo è stato poi ripreso da Schnorr von Carolsfeld, che è stato il pittore invece incaricato dalla corte imperiale a fare una cosa più consona ai propri intendimenti. Allora non c'è più il ballo sfrenato precedente di Koch, questo qua fu accettato nel Ferdinandeum, no? Ma i disegni dei due fratelli, soprattutto del giovane, di Jakob Altmutter, vediamo magari più avanti, no, neanche, no, qua non ci sono. Sono quelle battaglie, questo è De Frege. Se li si vede sono correlati, ma le immagini sono molto diverse, presentano anche le armate contadine, così con un abbigliamento che è molto fantasioso, nel senso che evidentemente era l'abbigliamento delle montagne, insomma, quindi qualcuno avrà avuto sicuramente pantaloni di cuoio corti, qualcuno ce li aveva lunghi. È curioso che qui anche la Liebig, sì, la Liebig si tengono ancora i calzettoni senza calza, però interessante, coprono solo i polpacci, sì. No? Però le brache lunghe sono ormai assenti. L'unico che ha sempre gli stivali è Hofer, sì. Anche se in realtà notoriamente il cronista dell'epoca, questo molte fonti orali, lo stesso Schwert, il suo seguace fino in fondo, testimoniarono che gli erano stati tolti gli stivali, lui al bambino l'hanno fatto marciare a piedi nudi nella neve, sì. Fin giù, e l'ufficiale si era anche incavolato perché l'avevano maltrattato da questo punto di vista. Però per motivi iconografici doveva tenere gli stivali, perché lo stivalone doveva essere segno comunque del comandante, quindi in qualche modo doveva rimanere. Quindi questa è troppo piccola, questa sempre cattura di Andrea Sofra, ma sempre molto, purtroppo. Qua sono quelle più tarde, sì. Ecco, queste sono quelle costruite da De Frege. Con ecco. gli invalidi che vanno a chiedere quasi la grazia. Io solo per i riferimenti, questo incrocio tra letteratura e pittura di cui si diceva all'inizio, vi citerei solo un aspetto che è stato molto ben sottolineato da un... Posso un attimo, sì, mentre cerchi? Ecco, no. Questa che vedete è una cartolina della Prima Guerra Mondiale, con Hofer che incita le truppe ad combattere. Questa è interessante, questa è sempre dello stesso tipo, e questa è quella, una cartolina degli anni 30 austriaca, in cui si vede la piana di Bolzano, Hofer, un tirolese, dicono auf Wiedersehen, quindi ci rivedremo, arrivederci. La scansione cronologica che vi volevo citare per vedere proprio la difficoltà della corona asburgica. Questo qua è un dipinto quasi coevo, uno dei ritratti più arcaici, anche questi qui, sempre in stampa popolare, sì. Però. E la fisionomia è diversissima rispetto a quella di De Frege, completamente sì. Diversa. No, tanto per citarvi le difficoltà, ci sono alcuni dati che vanno riportati. Allora, nel 1814, quindi 4 anni dopo solo la fucilazione di Hofer, c'è un padre servita locale che si chiamava Benitius Meyer, che era anche un discreto disegnatore, tra l'altro, perché aveva insieme fatto un testo e disegni, aveva tentato di pubblicare una tragedia, Andreas Hofer Sandwirt in Passaire, che fu immediatamente censurata dalla corte asburgica, che non lo voleva intorno, naturalmente. Qua siamo nel 14, prima della fine del connubio tra l'impero dell'impero con tra i due imperi, tra virgolette, cioè Napoleone e la casa d'Austria, insomma. E quindi è anche comprensibile in qualche modo, però la cosa meno comprensibile, a parte ecco nel 1815, l'anno del congresso di Vienna, della caduta di Napoleone, naturalmente cambiano tutte le carte europee, Franz e Jakob Altmutter vengono incaricati, appunto i due cronisti, i pittori degli Schutz & Company, incaricati di decorare con una serie di affreschi all'Hofburg di Innsbruck l'immagine della rivolta. Però subito dopo, l'anno dopo, il 1816, cambia di nuovo il vento, e viene censurata la tragedia nazionale di Andreas Hofer, di Johann Caspar von Wörnble, che peraltro era anche un pittore. Nel 1825, appunto, è l'anno in cui Koch offre al Ferdinandeum quel dipinto che abbiamo visto prima e viene respinto. Cioè, come si vede, anche la volontà della casa imperiale di gestire l'immagine di Hofer non fu affatto continuativa. Presentava dei lati, dei problemi anche, che continuavano a ritornare poi nel piatto, quindi ogni qualvolta si tentava, no? Qualcuno anche di questi intellettuali più popolari, tra virgolette, filo popolare, tentavano di ripresentare il tema hoferiano all'attenzione e all'interesse della casa d'Asburgo, incorreva per lo più nella censura. La stessa cosa accadrà paradossalmente, e questo lo direi forse ancora più interessante, a forse il grande costruttore Andreas Hofer, che è il barone Josef von Hormaer. Hormaer era stato consigliere militare di Hofer e consigliere diplomatico. Dicevano le male lingue che lui arrivava sempre terzo, no? Quando c'erano le battaglie, poi arrivava Hofer, poi arrivava il secondo, poi arrivava lui, no? Per prendere gli applausi e le cose. Però Hormaer poi è uno degli artefici dell'abbandono di Hofer nel momento della sua caduta in disgrazia. Non si fa più sentire, non intrattiene nessun tipo di rapporto con i francesi nel momento della liberazione, eccetera. Ma non si limita a quello. Hormaer ovviamente è un intellettuale, perché lui faceva il funzionario di corte imperiale, quindi i baroni Asburgi erano figure molto interessanti, perché noi abbiamo un'immagine talvolta un po' troppo metternichiana, no? dell'aristocrazia viennese. Era una delle aristocrazie più complicate d'Europa, no? Perché era una spesso delle più cosmopolite, avevano molto spesso un vero e proprio pendant parigino, no? Nei loro interessi, cioè il fatto che Maria Antoinette fosse la figlia di Maria Teresa non era stato casuale, era un rapporto che esisteva tra le grandi corti europee, che erano anche spesso scambi di funzionari, quindi era una grandeur anche quella viennese, e Vienna non era il resto dell'Austria, su questo lo è oggi e lo era ancora di più naturalmente agli inizi dell'Ottocento, insomma. E questa grande distanza anche di questi ambienti intellettuali e queste elite aristocratiche, bisogna ricordarsela, perché effettivamente quando noi troviamo presenti sulla scena tirolese a fianco di figure di contadini, osti contadini, ma come era l'intelligente Hofer, un uomo sicuramente di notevole intelligenza personale, perché non avendo fatto scuole regolari eccetera, gli editti sono scritti in modo impeccabile, è vero che aveva poi i suoi scrivani eccetera, però sapeva anche dare un'impostazione, perché le lettere private, la lettera privata alla moglie, al fratello in punto di morte, sono scritte con, diciamo così, proprio con la cultura, quella cultura di pietà popolare, di devozione molto fortemente cattolica, che caratterizzava appunto questa piccola borghesia rurale, che si potrebbe definirla un po' così, quella dell'oste, contadino, allevatore, venditore di vini al dettaglio all'ingrosso, frequentatore di tutte le fiere, appunto di Mantova, di Verona, no? Cavalli sono gli avellinesi, sono i cavalli che sono più diffusi nell'Europa agli inizi dell'Ottocento come cavalli da lavoro, quindi in realtà è un po' un piccolo imprenditore, insomma, che sono dei trattori agricoli, insomma. Ma Hormaer è una roba completamente differente, no? Arriva come consigliere militare anche Eisenstecken, di cui ci sono ancora gli eredi, tra l'altro Bolzano, e sì, con continuatore. Sì, di cui c'è un architetto comunale, è un architetto, una donna, che è identica fisionomicamente all'antenato, è una cosa impressionante. Hanno un carattere veramente, io non ho mai visto una cosa simile, Fatto il conto ci sono 6 generazioni e hanno addirittura ancora gli stessi caratteri fisionomici, una roba, si capisce subito che lei sì, perché c'è. Sì, donna molto molto in gamba, tra l'altro. È un intellettuale anche quello, Eisenstein, che era uno studente universitario di Freiburg, che insieme a un gruppetto di universitari prende e va a combattere per il patriottismo antinapoleonico, no? Perché poi la logica poteva schierarsi da una parte o dall'altra, no? C'è questa nuova intelligenza europea patriottica che a seconda di come lo percepisce e lo rappresenta si può stare direzionando. E poi c'è Hormaer, questi qua sono degli intellettuali che sono nutriti, sono dei libertini spesso sul piano personale. Il devoto e pio, anche un po' bigotto, Hofer aveva a che fare con queste persone qui, erano due mondi quasi incomunicabili. Ormai lo scarta, a un certo punto non solo lo usa, poi lo scarta, però continua il suo lavoro intellettuale, e continua il suo lavoro intellettuale in una roba che è molto interessante, si chiama Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst, che viene modificata poi nel 1823, gli cambia nome a questo archivio, diventa für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, quindi toglie l'elemento bellicista, eccetera, no? Però ha un organo di stampa letterario intellettuale in cui propugna un'immagine di arte patriottica e si pone una domanda, si inventa una rubrica in cui si pone la domanda: ma è possibile che la storia austriaca non abbia pathos nazionale, passionalità? Dice: no, non è possibile, esiste. E quindi si fa propugnatore Hohmeier, dopo la morte di Hofer, di quello che è la costruzione di grandi miti collettivi, Asburgici, eccetera, in cui esclude Hofer. Lui fa un elenco di figure che dal suo punto di vista sono importanti, e naturalmente l'arciduca Giovanni era entusiasta, che era un po' il più naif, insomma, della compagnia, no? Di questa cosa qui. E dice: le figure che sono più interessanti sono Federico Tascavuota, Massimiliano I, e Federico Tascavuota anche nella sua presentazione all'Ande, che è cittadino, c'è tutta c'era una mitologia colta, no, sulla figura di Federico Tascavuota, che avrebbe partecipato a un'attenzione poetica sotto mentite spoglie, poi si sarebbe rivelato ai suoi sudditi, a Landeck. Personaggio notevole. Sì, ovviamente. In quel momento c'è anche un che papa. Che inventata, naturalmente, tutta un'aneddotica. Un papa che era Giovanni XXIII, il primo. Sì. Che era antipapa. Appena dichiarato antipapa, e Federico da Tasca Vuote lo aiuta a scappare. Sì, quello sì. Che poi perde tutti i poteri, per cui diventa da Tasca Vuote. Però no, l'immagine appunto è quello del sovrano popolare, a parte anche Rodolfo d'Asburgo, no? Anche il fondatore della dinastia aveva un po' questa fisionomia, Rodolfo il prete, Massimiliano I sulla Martinswand, no? Che è questa roccia sopra Innsbruck a strapiombo in cui sarebbe rimasto bloccato durante la caccia al camoscio, ormai era lì pronto alla morte, si era preparato, ma un fanciullo divino appare e lo porta in salvo. E ci sono una sequenza di quadri di sta roba, una sequenza su Federico. Ma Hohmeier lo teorizza questo, cioè lui dice: queste sono le figure che devono essere sostenute. Poi ci mette insieme anche Ferdinando II d'Asburgo con Filippine Welser, la sua moglie morganatica che gli diede due bei marmocchi, e Mainardo II, dice, per il Tirolo, Margareta Maultasch, fa proprio l'elenco, lui dice, fino a Michael Geismar. Hohmeier era un uomo colto, ma guardate che nel 1818 dire che Geismar è una figura da riprendere, eccetera, è una cosa proprio da erudito. No, ma anche perché era sparito completamente dalla pubblicistica sia tirolese che di lingua tedesca, non esisteva praticamente più memoria su Geismar, no? Quindi, e lui cita anche il cancelliere Binner, che era un cancelliere di Claudia de' Medici, che poi cadde in disgrazia con l'erede di Claudia e fu condannato a morte ingiustamente, quindi l'immagine del buon funzionario. No, cita il cancelliere, perché il cancelliere era tedesco, e allora c'era infatti non a caso, anzi lui lo si vede bene, c'è un bel quadro di un pittore di Magret, tra l'altro, un pittore locale, che era un buon pittore, che qui c'è anche in questa raccolta, dove viene messa, perché sono proprio delle mise en scène, no? Sono delle cose teatrali questi quadri dello storicismo tedesco, e De Freger è l'ultimo di questa generazione, dove teatralmente vengono rappresentate queste cose, e lì gli italiani sono negativi, non perché siano italiani, perché è il cattolicesimo romano troppo presente. E in Hohmeier, che era un liberale, paradossalmente, era un liberale, Metternich lo detestava, perché aveva fatto delle aperture eccessive in senso liberale, era stato il grande suggeritore di Hofer, quindi cose piuttosto complicatine da questo punto di vista, era uno che, insomma, era abbastanza polemico col cattolicesimo romano, tant'è che si fa anche promotore di alcuni quadri storici, in cui vengono rappresentati i protestanti della Zillertal che vengono cacciati poi negli anni 30, no? E c'è un settore dell'intelligenza viennese che patrocina queste produzioni pittoriche anche qui, che era una pagina mica tanto facile, perché alle porte di Innsbruck, una comunità di origine riformata, anabattista, poi erano dei mezzi huteriti in realtà, no? Quelli della Zillertal, che vengono cacciati, addirittura preferiscono immigrare in Slesia piuttosto che subire l'oltraggio della conversione forzata, e una messa in scena epica, no? Fatta esattamente con gli stilemi di De Freger, uguale identico, è una teatralità progressista, tra virgolette, no? Molto polemica, e in questo senso anche Claudia de' Medici, però lei era troppo de' Medici, allora è il cancelliere che è la figura positiva, il funzionario incorruttibile, che viene, ha fatto cadere in disgrazia per le trame losche dei papisti locali, no? E sono lì che si torcono le mani con un'aria grigia. Non so se siete stufi, possiamo anche finire qua, ma se volete, solo per vedere due cose magari di De Freger, giusto per capire un po' chi è, no? Perché questo qua è un PowerPoint che è stato fatto da... Aia, troppo veloce, vabbè, comunque... Lui era un pittore, era originario di una località del Tirolo, no? De Fregger, perché era di famiglia contadina, di famiglia modesta, con evidentemente grandi capacità pittoriche, perché non era sicuramente un pittore di secondo piano, rispetto anche ad altri importanti storicisti, pittori storicisti del suo tempo, anche se ho trovato nei cataloghi viennesi o di Monaco, non è considerato un esponente di spicco della scuola storicistica. Lui era stato parzialmente allievo di von Piloty. Von Piloty era forse il principe dell'Accademia Storicistica di Monaco, e lui era stato un po' un dissenziente rispetto a quel modello, no? Però sicuramente aveva avuto la sua formazione a un certo punto dalle arti decorative, dalle arti applicate, possiamo dire, alla grande produzione artistica, passando a Monaco, e diventa un pittore monacense dagli anni 60 in poi. Quindi lui, la sua formazione tra virgolette popolare eccetera, è molto breve, insomma, no? A Monaco è dal 61, quindi lui era del 35, insomma da 26 anni in poi lui nel territorio tirolese non ci mette più piede praticamente. Certamente i suoi ricordi di infanzia in qualche maniera arrivano dentro, però ecco, questo è uno dei più interessanti, no? L'incontro tra Speckbacher, braccio destro insieme a Peter Mayer di Andreas Hofer, e il figlio Anderl, che si sarebbe presentato da lui scappando contro i suoi intendimenti e si sarebbe unito alle forze, e il padre è lì che tra il severo eccetera. Adesso qua l'immagine purtroppo non è abbastanza grande, è di una intelligenza costruttiva impressionante questo quadro, perché c'è un'attenzione da parte del pittore che possedeva, poi del 1869, lui ha già fatto il suo apprendistato monacense, era già stato in Francia, quasi certamente alla lezione di Courbet l'aveva preso, forse non direttamente dal maestro, ma c'è un influsso molto forte, perché c'è un impianto anche, possiamo dire, molto, molto intenso dal punto di vista emotivo, no? È attentissimo alla psicologia dei personaggi. No? Ognuno ha un movimento, E soprattutto sono quadri corali, sono quadri collettivi, no? Anche quando poi lui si dedicherà anche solo ai ritratti di Hofer, lo farà solo quando la figura di Hofer è già immersa in un tessuto collettivo, cioè si sa già che è Hofer con dietro tutti gli altri. Quindi sono sempre dei quadri di grandi dimensioni collettive, no? Con tantissime sfaccettature. Adesso qua, se si vedesse un po' più rischiarato anche il quadro, ogni personaggio ha un'espressione attentissimamente rappresentata. Speckbacher è in realtà con un'espressione molto ambigua tra il soddisfatto, l'orgoglioso per il figlio, e però anche il severo, no? Perché c'è un cipiglio severo. Il bambino si presenta accompagnato da il vecchiotto che fa parte comunque della Schutzen Compagnie, insomma ancora valido, eccetera, che lo presenta un po' come uno zio, no? Un nonno così affettuoso, e lui si tira un po' indietro, no? Perché è un po' impaurito dalla reazione del padre, e però ha un'espressione furba, un'espressione scaltra, un'espressione però dolcemente scaltra, no? Quindi sarà un rimbrotto paterno però orgoglioso, no? Quello che si cela. È costruita teatralmente, si direbbe quasi cinematograficamente, perché ci sono una serie di azioni accennate, impostate, basterebbe solo metterle in movimento ed è perfetto, no? Sono come dei venivano fatti, no? All'epoca, no? Delle rappresentazioni teatrali, no? Con delle messe in scena di quadri animati, no? Per cui rifacevano con gli attori in carne ed ossa delle celebri tele, no? Eccetera. Qui lui fa l'operazione rovesciata, lui mette in scena dentro al quadro delle persone vive, modelli, perché sono tutti modelli, e sicuramente sono dei modelli fissi. Io non conosco delle ricerche specifiche, ma sarebbe molto interessante vedere se qualcuno è riuscito a trovare le biografie di questi modelli. Cioè, sarebbe possibile dare nome e cognome a Speckbacher, a Hofer, eccetera, cioè, sono fissi. La loro fisionomia è vera, non è solo realistica, è proprio reale. Ha preso qualcuno che doveva assomigliare a quello che lui aveva in mente come idea di Speckbacher. Magari era siciliano, se la butto lì, però chi lo sa da dove veniva, perché la mente di Monaco, anche Monaco era una grande città europea negli anni 60, non dico fosse un porto di mare, ma certamente era una capitale europea molto aperta, era stata la grande, pensiamo un po' anche al paradosso storico, era stata la grande nemica del movimento hoferiano Monaco, era la capitale nemica, la sentina di tutti i vizi, la Babilonia terrena. Non era mica la capitale di un impero devoto, era il luogo da cui partiva l'orrenda presenza franco-bavarese sul sacro suolo tirolese, e diventa il luogo in cui viene elaborata dentro le sue accademie la figura di Hofer e di tutta la compagine. e con naturalmente la costruzione molto efficace anche del sistema dei costumi. L'abito, c'è un'attenzione, io ho notato, tutti i dettagli degli abiti di De Fregger sono minuziosi. Non gli sfugge nulla, tutto deve essere molto, infatti si vede lo scrivano a sinistra è in abiti invece più borghesi, deve rappresentare lo scrivano, il Bert che faceva parte del gruppo di Hofer. Gli altri sono invece rappresentati con abiti che devono denotare la loro condizione contadina. Tendenzialmente l'aspetto ecco più teatrale è il fatto che è difficile vedere differenze sociali tra gradi diversi di contadini, no? Mentre quasi è certo che all'interno anche delle armate contadine la differenziazione sociale era marcata, perché nel 1808-1809 non tutti, neanche nelle valli alpine, avevano la possibilità di arrivare ad avere lo stesso abbigliamento. Un gilet rosso non era certamente alla portata di mano di un servo agricolo, poco ma sicuro, no? Quindi da quello che noi sappiamo anche dai disegni dei due cronisti, che è ben vero che non dipingono a colori ma in color seppia, i contadini rappresentati lì molto velocemente non hanno mai degli abiti regolari, hanno dei calzoni diversi, delle giacche diverse, spesso rattoppati. Anche nel dipinto di Koch che abbiamo visto all'inizio, per quanto fantasioso eccetera, però paradossalmente era più vicino effettivamente a quello che era il mondo rurale del tempo di quanto non sia a distanza di 60 anni nella civilissima e liberalissima Monaco accademica la rappresentazione che ne fa, appunto teatralizzata e quasi cinematografica, invece De Fregger, che tra l'altro finirà i suoi anni insignito di un titolo aristocratico, diventa von De Fregger, di cui si freggerà sempre con grande, ovviamente, con grande intelligenza. Io cito Courbet perché Courbet è un po' l'archetipo, no, di queste messe in scena, dove la grande rappresentazione collettiva rappresenta qualcos'altro e dove la storia non è ridotta alla piattezza aneddotica, ma anzi l'evento diventa qualcosa che rimanda a un altro ordine di significati, per lo più etico-politici, no? Come qui l'orgoglio, no? la robustezza degli affetti, la solidarietà rurale e nello stesso tempo, no, il forte sfondo patriarcale. Sono tutti uomini tranne una donna lì dentro che sta servendo in giro, no? Tra l'altro, no? una donna con una bambina che stanno servendo al tavolo, l'altra una robusta società maschile, no? È fissa questi elementi qui. Quanto questi elementi fossero quelli effettivi dell'epoca di Hofer è molto difficile da dire. Certamente ormai questi modelli qui vestono una divisa. Una divisa che è una divisa tardo ottocentesca. Vediamo un po' altri elementi. Qui si vede la differenza di De Fregger quando si piega invece la ritrattistica privata, eccetera, no? Un pittore molto differente, anche più povero, tra virgolette. L'ultima chiamata è uno dei quadri più famosi, no? Ce ne sono almeno due copie in circolazione. Questa è la Gemäldegalerie Berlino, no? Poi a Vienna ce n'è un'altra copia, no? C'è al Belvedere, ce n'è un'altra riproduzione. Quindi è un quadro che ha una notevole potenza, però è naturalmente anche questa teatralità, insomma, no? Con questa è l'Heimat, però anche qui è interessante, è perdente, perché l'ultima chiamata è quando ormai, dopo l'ultimo disastro, la seconda battaglia del Berghise, allora ormai si è allo stremo e sono i vecchi del paese che vengono chiamati alle armi, vengono chiamati, vanno spontaneamente perché il loro orgoglio, no, di appartenenza, eccetera, eccetera. Però, se si guarda chi rimane sono solo bambini, anziani, e comunque sullo sfondo ci sono le nubi grigie che si sì, ormai. Ma è il pathos. Questo qui non è pittura storica, è pittura storicistica, però bisogna dirlo, no? Perché ovviamente la volontà del pittore è di andare al di là dell'evento direttamente narrato, ma di dire delle cose dell'evento. Questa era una cosa che anche gli storici dell'epoca, insomma, no? Anche il von Ranke diceva che era una cosa legittima da fare, no? Il grande storicismo ottocentesco, no? C'era un teorico che si chiamava Fischer, no? Che teorizzava queste cose nell'ambiente di Monaco proprio, quindi era un filosofo che insegnava all'Accademia di Monaco, che aveva creato proprio una vera e propria cerchia intellettuale intorno a questi principi, e De Fregger abbraccia completamente questi principi. Il pathos sostiene la, diciamo così, la rinascita, la restituzione di questo, di questa qui è la Heimatgefühl, no? Proprio l'emozione del sentimento patriottico, no? E dove, ciò nonostante, ecco, l'elemento teatrale emerge in maniera molto schietta, cioè ad esempio qui l'aspetto del paesaggio sullo sfondo, oltre dal mio punto di vista ad avere qualche problema prospettico non del tutto risolto, perché non è esattamente un capolavoro di prospettiva anche per quanto riguarda la profondità nell'ambientazione. Potrebbe essere un fondo scenografico, può funzionare esattamente alla stessa maniera, anche molto piatto, no? De Freger era un pittore molto più bravo di quello che può essere un errore di questo tipo. È volontaria la messa in scena, no? Lì è rappresentato in qualche modo quello che dovrebbe essere, non un maso però, no? Una casa. Noi sappiamo che questa è una casa patrizia, no? La si può trovare su Apprisian, no? Una roba così, no? Nelle case dell'aristocrazia tirolese, non esattamente in un paese contadino, no? In cima a una montagna, insomma, sempre che in cima a una montagna sia un paese contadino, insomma, no? Perché noi sappiamo che anche. Questa è quello che vuole essere ovviamente presentato ai suoi committenti. I committenti sono ancora una volta l'elite monacense e parzialmente la casa d'Asburgo, che non è una grande committente, ha detto, userà il mito, ma non spenderà tanto, insomma, anche questo. Franz Josef aveva invece una specie di predilezione, era un ragazzino. Nel 1841, a 11 anni, disegna di suo pugno, da ragazzino, la fucilazione di Andreas Hofer. Lui aveva risentito già del mito feriano da bambino. Quindi la sua adesione, per esempio il suo essere presente all'inaugurazione del monumento a Merano, fu frutto non solo di un calcolo politico, eccetera, no? Ma anche di una probabile sincera adesione emotiva, però puramente patetica, tra virgolette. Il ritorno ai vincitori fu dipinto È un errore di 1876 in pandan con l'ultima chiamata, perché per gli stessi committenti tedeschi, notate bene, non austriaci, tedeschi, germanici. L'Austria era stata piegata 10 anni prima, eh? Sconfitta di Sadova 1866, messa in ginocchio, costretta a rinunciare definitivamente al titolo di cristianissimo imperatore d'Occidente, eh? Non c'è più l'impero d'Asburgo, a opera della Germania, ed è la Germania la committente di queste immagini hoferiane, dopo aver anche annesso il territorio bavarese. Quindi costruisce un'immagine. Sarebbe interessante studiare proprio questo dentro la prospettiva qui dell'uso della figura della Schultz & Compagnie dentro al progetto Großdeutsch, no? Della casa tedesca, insomma, Guglielmo II, insomma, quindi i Wittelsbach ormai non esistevano più, poveretti, no? Erano lì rinchiusi nei loro deliri privati del povero Ludwig, ma certamente dal punto di vista di grande monarchia europea non esistevano più. Il pandan è proprio speculare, no? È come se fosse l'altra faccia, come se fosse rovesciata, no? L'immagine. Questa volta invece è l'inizio, i giovani, no? Anche lì, messa in scena spettacolare, maestosa, no? Decine e decine di personaggi, tutti attentamente riprodotti, eccetera, eccetera. Io credo che lui avesse uno schema in mente fisso, che è il funerale di Ornans di Courbet, che è molto visibile come schema di fondo, anche se in Courbet è un episodio della sua ricerca pittorica, diventa un po' invece il canone fisso dei quadri di De Freger, no? Perché ha questa impostazione, non c'è uno sfondo, per esempio, tutto è piatto, no? In sostanza. Anche qui la profondità prospettica lascia un po' desiderare, ma è volontaria come scena, perché quello che è essenziale è la gestualità e l'azione che viene rappresentata, anche quando non è del tutto esplicita. Questo un po' sbracca nell'immagine dello Schützen che tira su la gamba e danza in maniera un po' burlesca, eccetera, no? Ma per enfatizzare il lato qua felice, no? Gioioso e così spontaneo, popolaresco. Il rischio del grottesco qui è abbastanza esplicito. Però è interessante vedere anche la scelta del piano che viene fatto, no? Mentre gli interni li gestisce, diciamo, in maniera più consona, probabilmente anche alla sua formazione accademica, gli esterni sono proprio appunto delle opere teatrali con questo intendimento anche riuscito effettivamente, no? In cartolina è perfetto, è quasi meglio che come quadro, insomma, no? Questo non è l'arresto di Speckbacher, questo è un errore della didascalia, è un altro Oste. Che adesso vi dico è il Peter Sigmayr, Oste di Val d'Aora. Questo sarebbe il titolo giusto. L'anno giusto, 1893, finisce poi al Ferdinandeum, se lo comprano. Qui è un po' la stessa cosa, no? Lo si vede bene ancora una volta. Il patetico, no? Qui c'è il pathos, l'Oste di Val d'Aora che si era ribelle, eccetera. Si consegna spontaneamente due perfidi gendarmi francesi, Notiamo bene che nei quadri di tutti i pittori del tempo sono quasi sempre i francesi che sono rappresentati, ma i bavaresi non ci sono quasi. Erano in gran parte formate da armate svizzero-bavaresi, le armate nemiche dei tirolesi. I francesi erano soprattutto ufficiali e sottufficiali, quindi c'erano pochi. Invece qua naturalmente sono ovunque. Il modello richiama tantissimo, devo dire, la pittura però inglese coeva, che avevano avuto modo di vedere molto da vicino, no? Cioè, la scuola, il realismo pre-raffaelita, non quello di Dante Gabriel Rossetti, ma quello di Lawrence, per esempio, che poi diventerà anche il monumentalismo un po' rigido di Alma Tadima, questi personaggi qua, aveva già fatto le rappresentazioni simili. Ancora una volta è un tema scozzese, mi sarebbe piaciuto mostrare l'immagine della pittura inglese coi, perché è praticamente parallela, quasi uguale, la posa del personaggio è quasi identica. Anche qui la rappresentazione del vestito vuole sottolineare, qui sì, davvero il carattere un po' più primitivista, no? I gendarmi sono la modernità avanzante, negativa, vestiti con la divisa, eccetera. Lui è vestito invece da fiero abitatore delle Alpi, insomma, no? Che ha un mantello buttato sulla spalla, come un eroe di teatro del tempo, no? Fa il passo deciso, entra nella stanza, il padre cieco non lo vede, fa un gesto con le mani come a cercare di vederlo, no? Patetismo fortissimo, eroico. No? No, la moglie. Sì. Quella dietro, no? Che in ostaggio, no? I piccini non capiscono, l'immagine naturalmente eroica. E qui poi arriviamo alla creazione dell'iconografia di Hofer, fisionomica proprio, si è fissata ormai questa immagine, che è il risultato interessante di un pastiche, no? Tra alcune tavole più o meno contemporanee dell'età hoferiana. C'è un ritratto che praticamente, c'è un unico ritratto che è contemporaneo, in cui si vede un signore con l'aria un po' rubizza, col naso a patata, un gran barbone che sorride, ha un'aria anche di buon bevitore, devo dire. Lo sottolineava anche il buon padre, il padre Servita, Maier diceva sì, che l'aveva conosciuto, diceva che non chiudeva mai la giornata senza una buona bevuta di vino, no? Evidentemente non vendeva solo il vino, se lo beveva anche, ma insomma come era nel tempo, no? Aveva un'aria, ecco, magari meno austera e calvinista, tra virgolette, no? Meno morigerata, no? Nel ritratto, nella tavola naif, popolare. De Freger ne fa un personaggio appunto intenso, no? È un eroe antico, no? La barba diventa una barba tra il profetico e il guerresco, no? Quasi un... La cosa secondo me interessante, che è confortata molto dalla storia del cinema, non vorrei dire una cosa che vi sembri banale, ma è stata una cosa interessante, c'è un bel lavoro che aveva fatto il Canepele, Paolo Canepele, un po' di anni fa, sulla storia del cinema austro-tedesco all'inizio del Novecento, no? Il cinema muto austro-tedesco, ha dei cliché iconografici che seguono vicinissimi il modello di De Freger nella rappresentazione dei drammi erotico-pastorali nelle valli tirolesi. Facevano dei brevi film, dei cortometraggi, in cui i tirolesi erano tutti con caratteri meridionali. Perché nell'immaginario viennese il tirolese era del sud, geloso, intemperante, scuro. È interessante notare che questo Hofer qui è ben poco, noi pensiamo un po' all'immagine che verrà un po' arianizzata, no? Negli anni 30 successivi. È molto, tra virgolette, mediterraneo, come Speckbacher, no? Per esempio, nella parte, adesso parlando così proprio in termini biologici, in Val Venosta... Ah sì, beh, è anche vero che tutta una parte... I cromatismi della gente scuri, veramente, beh, ma tutte le valli, so se è zigano, cosa... Ma anche i vecchi ladini sono molto scuri, Sì, i vecchi ladini anche... Anche gente di adesso, Fassani, la pelle di Vastra... Ma anche in Val Gardena, sai, quando trovi in Val Badia, in Val Gardena, i masi più vecchi, più antichi, ogni tanto li trovi anche nella parte, le famiglie su tirolesi più vecchie anche, sono molto scure spesso, ma sai, i Baiuveri hanno lasciato il loro segno, ma anche quelli di prima, insomma, erano Moretti, ancora parecchi, lui era un Vinschauer, quindi insomma un po' scuretto lo era, perlomeno dalla ritrattistica. Qui diventa... Ma le Svenosta ancora oggi le donne sono scure, hanno tutti i capelli neri, non conosco bionde, più nella bassa tesina c'è il biondo con l'occhio azzurro. Certo, c'è anche un po', ma tutte le popolazioni transalpine comunque sono un bel frullato di genti diverse, no? Perché certo. Mescolano i geni. Qui tra l'altro per il passaggio, per esempio. Ma interessante che in effetti anche in questa costruzione di questi temi non prevale una fisionomia etnicistica. Questo è interessante, no? Perché è abbastanza corrispondente alla realtà, devo dire, no? Il moro, il rosso, il biondo, senza un'enfasi particolare su uno o sull'altro. Il carattere passionale invece è proprio meridionale, tra virgolette, no? Per cui sono pose, questa teatralizzazione, no? Eccetera, si fisserà poi in quella cultura lì, no? Per cui questi film muti austriaci, per esempio, avevano tutti inevitabilmente lo stesso finale: lui ama lei, poi arriva il vilain che concupisce lei e lui, il buon contadino, gli spara. Sì, sì, proprio storie di morte, un po' come nella cosa napoletana, no? Con isso è umanamente, no? E va sempre a finire male, poi, no? Come storie di passione, ecco. Qui il riferimento appunto al la falsa sì, al popolare, qui si rischia il Völkisch invece, no? Proprio, no? Sul, però anche qui indubbiamente un grande disegnatore, no? La messa in scena interna secondo me sono bellissime di Frege, sono impeccabili. Sì. No, ma non erano accademici, usavano le fotografie, certo. Modelli, no, fotografie. Sì, sì, ma è modernissima come forma di rappresentazione, cioè prima del cinema, voglio dire, no? Questo qua è una cosa su cui si era molto soffermata la Silvia l'altra volta, si era molto divertita a mostrare questo aspetto che lei definiva quasi caricaturale e non involontariamente, cioè dice che De Frigger, secondo lei, assume un atteggiamento molto distaccato. Io non so se si possa dire, però certamente qui la capacità della rappresentazione delle emozioni che ha indubbiamente il pittore e qui diventa stranamente irrisoria nei confronti dell'elemento contadino, no? Perché ci sono i due studenti vestiti da esploratori, quei due vestiti di grigio sono palesemente due studenti di città, no? Che non sono contadini, si vestono per fare l'esplorazione, vanno su Almaso e che fanno gli scemi con la contadinella lì al coso, no? E c'è bellissimo, la madre di lei. Loro due con l'aria sorniona e vagamente suina, insomma, no? Con un'aria neanche tanto camuffata. La madre di lei, che occhiatina che lanciano. Il rischio della caricatura è abbastanza forte, no? È vero questo, no? Però è più che altro messa in scena, ecco. Ecco. Direi basta. Grazie a voi. Grazie a voi, sì. Adesso stacchiamo. Sì. Adesso ti tolgo il coso, ritorno tutte le concine.